romanzo, romanzo d'amore, la nostra storia è come il mare, l'onda che arriva e poi si ritrae contro gli scogli, poi d'un tratto si infrange. In un romanzo abbiamo vissuto quante montagne abbiamo scalato. Quel giorno il nostro amore ci ha uniti e poi la gelosia ci ha divisi. Con te ho litigato, ma poi ti ho amato. Per me al mondo c'eri solo tu. Che strana è questa vita, per come l'ho vissuta. Tu scendi, sali e scendi e poi torni su. Romanzo, romanzo d'amore, storie di vita tra quattro mura, piogge, tempesta, poi torna il sole, ma quest'amore non si dissolve. Quel giorno il nostro amore ci ha uniti e poi la gelosia ci ha divisi. Con te ho litigato, ma poi ti ho amato. Per me al mondo c'eri solo tu. Che strana è questa vita, per come l'ho vissuta. Tu scendi, sali e scendi e poi torni su. Che strana è questa vita, per come l'ho vissuta. Tu scendi, sali e scendi e poi torni su.